l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Radio 24, il nostro viaggio settimanale alla scoperta dell'Europa, la quotidianità politica ed economica europea viene raccontata da Radio 24 nelle sue mille sfaccettature. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, le coordinate virtuali euronetplus.eu è il portale che vi invito come sempre a visitare perché è ricchissimo di inchieste, notizie, approfondimenti in tante lingue diverse, quindi è veramente un'immersione nella nostra Europa. Oppure chiocciola Euronet Plus R24 o ancora il mio account personale chiocciola Federico Taddia per trovarci sui social network Twitter e Facebook, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dalla Grecia. E con questa melodia natalizia diamo il benvenuto a Gilda Ligunis, giornalista e collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Gilda, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Cosa ci hai fatto ascoltare? So che è una musica che ci hai proposto tu quando ti abbiamo chiesto un canto natalizio. Sì, sono da Calandra, viene dal latino calende, è la classica canzone natalizia che i bambini alla vigilia di Natale cantano bussando di porta in porta, chiedono di poter cantare Ta Calandra e quando la padrona di casa dà l'ok loro cantano questa canzoncina, in cambio hanno qualche soldino o dei dolci. E ti abbiamo invitata perché abbiamo letto un tuo articolo molto bello su Osservatorio Balcani e Caucaso relativo a quello che sta succedendo col mercato immobiliare greco. Faccio prima un passo indietro. Abbiamo aperto col Natale, l'ennesimo Natale sotto l'ombra della crisi, e come ci si sta preparando, qual è l'umore appunto che in questo periodo, no? Che vengono estremizzati anche ovviamente gli umori nel bene e nel male. Come i greci si stanno avvicinando a questo Natale? Diciamo che la dice lunga un'indagine che è stata pubblicata proprio oggi su gran parte dei giornali greci, un'indagine di Eurobarometro, sì. Che diciamo misura il grado di soddisfazione, di ottimismo, insomma, dei cittadini dei vari paesi dell'Unione Europea. In Grecia 8 greci su 100 pensano che si stia facendo un pessimo lavoro per far uscire la Grecia dalla crisi, no? Mentre solo il 9% pensa che il governo stia seguendo una giusta politica, mentre nel resto d'Europa prevale il pessimismo, però diciamo che solo 56 europei su 100 la vedono. Sono prevalentemente pessimisti, certo. E quindi insomma c'è un bel divario con i greci, che 7 greci su 100 pensano che il proprio diciamo focolare, la propria casa farà molta fatica nei prossimi 12 mesi a farcela, tanto più che a proposito della casa, proprio in queste ore si sta votando nel Parlamento greco due leggi che fanno paura a molti, una che toglie addirittura la protezione dalla prima casa dal rischio di essere messa all'asta, sì, in caso di debito nei confronti delle banche o dell'agenzia delle tasse, e un altro che rende praticamente stabile una supertassa che era stata stabilita 2 anni fa come misura eccezionale, una supertassa sulla casa che arrivava tramite la bolletta elettrica, quindi non si poteva sfuggire, che in proporzione è molto più pesante della nostra IMU. Sì. Ecco, questa legge la rende stabile, cioè era uno scherzo, non durava 2 anni, adesso dura sempre. Ecco, e questa, proprio questa tassa è una delle cause di quello che sta accadendo sul mercato immobiliare greco, dove si sta speculando, tantissimi investitori stranieri stanno speculando, arrivano in Grecia, cercano di acquistare immobili alla metà dichiarata del prezzo di mercato, o prendere o lasciare, giusto? Sì, sono apparsi degli annunci sui giornali da parte di associazioni immobiliari estere che comprano immobili di ogni genere in Grecia a metà del loro valore di mercato tramite un mediatore ellenico. Chi è interessato telefonare al numero, ecco. Quindi diciamo non si mercanteggia, si parte dalla metà del valore, o prendere o lasciare. Quindi in questa situazione in cui secondo dati bancari 62.000 case stanno per essere messe all'asta se passa questa legge, perché la gente non ce la fa a pagare il mutuo, ovviamente si rischia di un terreno fertile per la corsa alla svendita. Siamo sempre in collegamento con Gilda Ligunis, balcanicaucaso.org, vi ricordo l'indirizzo di Osservatorio Balcani e Caucaso, dove potete anche leggere l'ultimo pezzo di Gilda, Grecia, caccia alla casa. Tra le mille implicazioni, Gilda, legate alla crisi e legate a quello che sta accadendo al mercato immobiliare, c'è anche il dramma del riscaldamento. Sì, il riscaldamento, perché appunto la stragrande maggioranza dei condomini per questo inverno nelle assemblee hanno deciso di fare a meno delle spese di riscaldamento, e non parlo solo di condomini popolari, anche di condomini del ceto medio, insomma. Quindi questi bambini che andranno a bussare alle poste per cantare non raccoglieranno molti soldini quest'anno, e in più troveranno case fredde. Si parla di 500.000 di case senza riscaldamento, a cui si aggiungono le case a cui sono stati tagliati proprio i fili, cioè diciamo a cui è stata tagliata la corrente e l'approvvigionamento di gas da parte della SEI, l'azienda dell'elettricità e del gas in Grecia. Appunto, siccome questa supertassa della casa arriva tramite la bolletta elettrica, se non la paghi ti tagliano i fili, quindi è una... Se non ci sono tante scappatoie, diciamo. Okay. Gilda, grazie davvero come sempre per averci fotografato la situazione. Noi siamo sempre ottimisti, ci piace raccontare la Grecia che tenta il risveglio, le nuove energie creative. Tante volte abbiamo narrato di esperienze che insomma nelle ceneri della Grecia si stanno cercando di germogliare, però c'è anche la Grecia reale, la Grecia della quotidianità, e insomma oggi ci hai dato una dura e cruda testimonianza. Grazie davvero, comunque in bocca al lupo e buone feste. Grazie, buone feste a tutti. Ciao. Europost-it. Inventiamo una banconota. I soldi mancano sempre, quindi perché non inventarli? Inventiamo una banconota è il concorso promosso da Banca d'Italia e Ministero dell'Istruzione allo scopo di sensibilizzare gli studenti italiani ai temi legati alle tradizioni e alle radici culturali, civili e politiche dell'Europa. Il concorso è rivolto alle scuole italiane primarie e secondarie, che possono partecipare ideando il bozzetto di una banconota immaginaria ispirandosi a un tema legato all'Europa. Per ogni istituto può partecipare solo una classe e le tre classi vincitrici verranno premiate a Roma. La loro banconota verrà anche stampata davvero. I vincitori potranno anche visitare il servizio fabbricazione carte valori della Banca d'Italia, e gli istituti scolastici di appartenenza delle classi riceveranno 10.000 euro di contributo per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. Trovate tutte le informazioni sul sito dedicato premioscuola.bancaditalia.it. Il concorso scade il 31 gennaio. Resettling them, a desperate race against time. We really, as an international community, as a world, have to do more. Gli apatici, questo è il finto film di cui stiamo ascoltando un trailer, un finto film di denuncia su quanto l'Unione Europea non abbia fatto, non stia facendo in Siria, ed è arrivato un durissimo attacco di Amnesty International, che dice i leader europei dovrebbero abbassare la testa per la vergogna a causa del numero tristemente basso di rifugiati della Siria che intendono reinsediare. Tutto ciò che non ha fatto l'Unione Europea, che ha miseramente mancato di fare la sua parte per fornire un riparo sicuro ai rifugiati che non hanno più niente se non la loro vita. Numeri impietosi, numeri che denunciano una sorta di indifferenza, una sorta di lontananza, una sorta di mancato impegno. Di tutto questo ne parliamo con Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia. Buongiorno Marchesi. Buongiorno a voi. Un attacco diretto, un attacco duro, un attacco che lascia supportato da numeri che in effetti lasciano poche possibilità di replica. Cos'è successo? Ma guardi, è un attacco giustificato secondo noi, perché di fronte a una cifra di circa 2.300.000 siriani che hanno lasciato il paese, i 28 stati membri dell'Unione Europea hanno dichiarato di essere disponibili ad accoglierne, a reinsediarne 12.340, e di questi 10.000 in Germania, quindi tutti gli altri 27 stati membri hanno offerto, diciamo, di accogliere 2.340 rifugiati. Tra questi la Francia ha offerto disponibilità per 500, la Spagna per una cifra veramente ridicola, 30 persone, l'Italia e il Regno Unito non hanno dato alcuna disponibilità al reinsediamento. E quindi diciamo che il peso è tutto sugli stati confinanti con la Siria, il Libano che ha più di 800.000 siriani sul suo territorio in questo momento, la Giordania oltre 500.000, la Turchia una cifra che oscilla tra i 5 e i 700.000. Evidentemente non si chiede all'Europa di accoglierne altrettanti, ma si chiede che almeno quelli che sono particolarmente vulnerabili, quelli che hanno bisogno di cure, possano entrare nell'Unione Europea e ricevere accoglienza. Questa grosso modo è la situazione. Bisogna dire che poi l'effetto è anche quello di dei numerosi tentativi dei rifugiati siriani di arrivare comunque in Europa, o via mare verso l'Italia o attraverso la Grecia e la Bulgaria, e il tipo di trattamento che ricevano in tutte queste situazioni è un trattamento sicuramente al di sotto degli standard di civiltà che ci si attende dagli stati dell'Unione Europea. Rifugiati siriani che bussano ovviamente alle porte anche dell'Italia, ed è sempre Lampedusa la porta d'ingresso? Sì, Lampedusa è la porta d'ingresso, dopodiché il problema è che mentre ad esempio la Svezia, che insieme alla Germania pare essere lo stato più sensibile di fronte a questa situazione, ha concesso asilo ad un numero significativo di persone non reinsediati, ma che arrivano comunque in qualche modo sul territorio svedese, e altri stati europei, tra cui l'Italia, invece non ha un atteggiamento altrettanto aperto. Poi ci sono i problemi delle persone che non ce la fanno ad attraversare il Mediterraneo, che quindi annegano, le persone che vengono respinte verso la Libia, le condizioni in cui vengono tenute queste persone nei centri che sono sostanzialmente centri di detenzione in Italia, ma anche in Bulgaria, anche in Grecia. In Grecia i respingimenti poi avvengono con modalità che il nostro rapporto descrive in grande dettaglio e che sono veramente inaccettabili. Ecco, oltre alla denuncia avete fatto anche proposte operative, avete cercato di... Amnesty International fa sempre proposte, chiede innanzitutto che sia aumentato in modo significativo il numero dei posti per il reinsediamento, diciamo l'ammissione umanitaria. Solo la Germania sta facendo in qualche misura la sua parte. Si chiede che siano rafforzate le operazioni di soccorso nel Mediterraneo, si chiede che sia posta fine, diciamo, alla condizione in cui vengono tenuti i rifugiati siriani in Grecia e in Bulgaria. Ho sentito che prima parlavate della Grecia, segnalo ad esempio che la Commissione europea, e questa è una responsabilità quindi dell'Unione, ha fornito nell'ultimo anno alla Grecia 228 milioni di euro per rafforzare i controlli alle frontiere e 12 milioni di euro per l'attività di accoglienza. Questa è una cifra che la dice lunga sulla diciamo le priorità dell'Unione Europea e l'assoluta mancanza di sensibilità per i bisogni primordiali di queste persone. www.amnesty.it è il sito ufficiale per conoscere tutte le attività. Che 2014 vi attendete, Marchesi? Noi speriamo di avere meno da fare, questo è sempre ogni anno l'auspicio di Amnesty International. Non c'è, diciamo, una prospettiva, un lieto fine in vista per questa situazione in particolare, ma per le numerose altre che seguiamo, e quindi dovremo continuare a lavorare a pieno ritmo, e speriamo di avere le risorse umane innanzitutto di sostegno ad Amnesty, che sono quelle su cui poi fondiamo, diciamo, la nostra capacità di agire, di avere impatto per migliorare realmente la vita delle persone. Grazie davvero, in bocca al lupo a lei e a tutto il suo team. Buon sabato. Grazie. Buone feste. Grazie a voi. Europost-it. Su quali temi vorresti si concentrassero i politici? Rispondete a questa domanda e vincete uno smartphone. È il concorso lanciato dal Forum Europeo dei Giovani e dalla Lega dei Giovani Votanti per stimolare l'attenzione dei ragazzi alla politica e contemporaneamente chiedere la loro opinione su quali siano gli argomenti che i politici dovrebbero mettere nella loro agenda secondo i più giovani. La domanda va scritta e postata online, specificando il paese di provenienza, e venire promosso per cercare di ottenere il maggior numero di like possibile. Il post migliore verrà selezionato da una giuria della Lega dei Giovani Votanti, tenendo in considerazione come criterio principale proprio il numero di apprezzamenti ottenuti. Avete già in mente la vostra domanda? Allora andate su youngvoters.eu. Complimenti! Ora che hai prestato giuramento, anche tu sei un cittadino italiano. E in quanto italiano godi anche dei diritti di cittadinanza europea. Puoi circolare liberamente per l'Europa e decidere di trasferirti in uno qualsiasi dei 28 paesi membri. Puoi studiare e far valere il tuo titolo di studio, cercare lavoro ed essere tutelato come un cittadino europeo. Hai diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria. Non dimenticare che puoi votare e candidarti per le elezioni europee del 2014. Cittadini italiani, cittadini d'Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Ci trovate su Facebook e su Twitter, @ Federico Taddia, radio24.it oppure euronetplus.eu, i nostri portali di riferimento. Quello che avete appena ascoltato è uno spot su un importante progetto che è appena stato lanciato, è stato presentato un paio di settimane fa, l'Europa nelle lingue del mondo, un progetto pensato e voluto per i nuovi cittadini europei. Ne parliamo con Nicoletta Basili del programma Integra, ideatore del progetto insieme alla Commissione e al Parlamento EU. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Allora, progetto promosso dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, e rivolto ai cittadini stranieri naturalizzati italiani. Di cosa si tratta? Si tratta proprio di un progetto che intende informare questi nuovi cittadini italiani, cioè coloro che appunto acquisiscono la cittadinanza italiana, sui diritti, diritti e le opportunità che dà loro, che conferisce loro l'Unione Europea, in quanto appunto una volta che si diventa cittadini italiani si diventa automaticamente cittadini europei. E in questa maniera abbiamo voluto, occupandoci noi molto di immigrazione, di cittadinanza, eccetera, abbiamo voluto dedicare una parte delle iniziative in corso per l'anno europeo di cittadini proprio a questi cittadini, dare loro le informazioni per godere dei diritti di cittadinanza europea. Mm-hmm. Ecco, in pratica il progetto come, in cosa si sviluppa, in cosa si concretizza? Allora, il cuore del progetto è un sito web che è www.nuovicittadinieuropei.it, dove all'interno del quale appunto abbiamo fatto delle schede pratiche informative sui diritti e le opportunità dell'Unione Europea riguardo a temi tipo il viaggiare, il trasferirsi in un altro paese dell'Unione Europea, lavorare, studiare, andare a curarsi in un altro paese dell'Unione Europea. Ci sono proprio informazioni pratiche, di facile consultazione su tutte queste tematiche, anche una scheda pratica su appunto il diritto di voto al Parlamento, insomma per le elezioni del Parlamento Europeo, sì, e per candidarsi alle elezioni europee. E questo sito ha in più un valore aggiunto perché lo abbiamo tradotto in alcune lingue non parlate all'interno dell'Unione Europea, che sono appunto l'arabo, il bengalese e il russo, che sono le principali lingue parlate da questi nuovi cittadini italiani. Mm-hmm. Accanto al sito ci sono appunto tutta un'altra serie di strumenti di comunicazione, quali delle brochure informative che noi stiamo distribuendo a Roma, Milano e Napoli, che sono le città che partecipano al progetto, e negli uffici cittadinanza di questi comuni. I nuovi cittadini italiani, per diventare tali, devono prestare giuramento alla Repubblica Italiana e lo fanno in questi uffici, e quindi in quel caso iniziano a ottenere da due settimane a questa parte, oltre alla Costituzione italiana, questo opuscolo che spiega loro i diritti di cittadinanza europea. Mm-hmm. Quindi insomma un lavoro diffuso utilizzando i vari media. Nuovicittadinieuropei.it è il sito, è solo il sito l'indirizzo di riferimento, o anche sul territorio ci sarà la possibilità di... Allora sì ci sarà, c'è questo sito, abbiamo anche una pagina Facebook. Sul territorio faremo dei workshop informativi sempre in queste tre città campioni, che sono Roma, Milano e Napoli, da gennaio in poi, e appunto l'informazione sarà diffusa attraverso il sito web, attraverso appunto anche il nostro sito web, che è quello di Programma Integra, l'organizzazione che promuove il progetto, e quindi appunto seguendo questi due siti a breve daremo informazioni dei workshop. Ok, grazie davvero a Nicoletta Basile, insomma complimenti e in bocca al lupo, perché vi aspetta un 2014 intenso. Grazie a voi, buone feste. Buongiorno. Buone feste, ciao. Europost-it. Academic Insight, un blog per il mondo accademico europeo e non solo. Siete studenti universitari, professionisti che lavorano in università, ricercatori o neolaureati in cerca di esperienza all'estero? Oppure siete già fuori dall'Italia e volete condividere le vostre esperienze? Allora date un'occhiata al blog Academic Insight, che raccoglie oltre 200 testimonianze di studenti sulle loro esperienze e interviste a professionisti al fine di collegare il mondo dell'università a quello del lavoro. Il blog ha ricevuto moltissime visite, anche se ha un anno di vita, e quest'anno è riuscito anche ad assegnare delle borse di studio ai lettori interessati, grazie alle iscrizioni agli eventi promossi sul sito, come ad esempio la simulazione delle riunioni delle Nazioni Unite. Siete curiosi? Andate su youracademicinsight.com. Questi sono i nostri Europost-it. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare, insomma, tutte le indicazioni anche dal nostro sito radio24.it, il podcast a disposizione, e poi tutte appunto le informazioni e i link relativi agli argomenti toccati. Adesso vi presentiamo un altro progetto, un progetto che ha carattere europeo perché sta coinvolgendo tantissime città italiane in una chiave particolare, una chiave nuova, perché l'idea è quella di mappare le metropoli di notte. Perché ce lo spiega uno dei coordinatori del tutto. Diamo il benvenuto al professor Gianni Ravelli, docente di scenografia di luce, se non erro, al Politecnico di Milano. Buongiorno Ravelli. Buongiorno. Scenografia di luce, ho detto bene? Scenografia di luce, perfetto. Di cosa si occupa? Teatro, cinema? No, è un corso di illuminazione, però è un corso di illuminazione un po' particolare. Noi siamo convinti che le città siano delle grandissime scenografie, soprattutto le città europee e italiane, e quindi che la luce sia un modo per valorizzarle. Quindi in questo senso scenografia di luce, non banalmente illuminotecnica. Mm-hmm. Ecco, e quindi nessuno meglio di lei, insomma, poteva sicuramente prendersi in carico questo progetto. So che avete recentemente fatto una camminata notturna proprio a Milano per mappare la Milano by Night, ma ci può raccontare in che contesto sta avvenendo tutto questo? Sì, dunque il progetto nasce con l'Università di Grenoble, con cui stiamo collaborando. L'ideatore di queste traversate urbane è il professor Luc Giavinski, che una quindicina d'anni fa ha iniziato a Strasburgo, poi a Metz, Nancy e Belfort, una serie di traversate. Le traversate, cerco di spiegare un po' meglio, sono delle vere e proprie, dei veri e propri modi di mappare la città, cioè di testare la città attraversandola in vari modi, da periferia a periferia, oppure da centro a periferia o da periferia a centro, per dare un ritratto il più fedele possibile della città, che tenga conto dei trasporti, degli spostamenti, dei servizi. Grazie a questo modo di leggere la città possiamo fornire alle amministrazioni comunali tutta una serie di indicazioni per migliorare la vita e la qualità della vita dei cittadini. Sono molte le città mappate in questo modo: Parigi, Helsinki, Amsterdam, Cracovia, Porto, Zurigo, Lione, Tours, Bruxelles, Ginevra, sono moltissime. Quindi è arrivata il turno di Milano e abbiamo considerato questa traversata molto importante alla luce di Expo, che, come tutti sappiamo, accoglierà moltissimi turisti da tutto il mondo. Certo. E cosa avete visto? Cosa avete accolto? Cosa si fotografa? Una sessantina di persone, tra gli studenti del Master di Innovazione del Territorio dell'Università Fourier di Grenoble e i nostri studenti, e ci siamo suddivisi in quattro gruppi. Ogni gruppo è partito da una periferia urbana e è arrivato verso il centro. Quindi un gruppo ha fatto il percorso dal Forum di Assago fino al Duomo, un altro gruppo dall'Ospedale San Carlo al Duomo, un terzo gruppo ha fatto un percorso un po' anomalo dall'Ambrate fino all'isola, passando dal centro, e l'ultimo gruppo ha attraversato la cerchia di Bastioni. In questo modo abbiamo verificato vari luoghi, varie esperienze anche notturne. Mm-hmm. E vedendo cosa? Dunque, la traversata è articolata in questo modo: sono gruppetti di 15 persone che attraversano la città seguendo un itinerario, un percorso già definito. Si incontrano delle persone e si pongono delle domande che sono mirate soprattutto a capire quali sono le reali esigenze di una città, quali sono le mancanze, le carenze e come si potrebbe migliorare questo tipo di della vita notturna. Diciamo che si parte da tre convinzioni. Esiste una vita diversa nelle città di notte che non conosciamo. Gli spostamenti a piedi consentono una lettura molto più dettagliata della città, e soprattutto la notte ha molte cose da dire al giorno, come sottolinea spesso il professor Giovinski, proprio perché la notte rappresenta un universo molto variegato, molto diverso da quello a cui siamo abituati a pensare. Nella notte non si muovono soltanto le persone che si divertono, ma le persone che lavorano, che fanno volontariato, che offrono servizi. Quindi il mondo della notte è un mondo molto complesso, molto articolato, che ha molte esigenze e che quindi vanno ricercate per cercare di risolvere i problemi. Mm-hmm. Ascolti professore, anche qui si può avere una visione europea, o meglio, ogni città è una mappatura a sé, o comunque si trovano dei punti in comune? Ma ogni città, come giustamente dice lei, ha una mappatura a sé, però ci sono delle esigenze oggi che non possono essere ignorate nelle città europee. Da questo punto di vista, Milano ha alcune carenze che sono state riscontrate molto grosse. Per esempio, tutte le persone intervistate, indistintamente tutte, di qualsiasi età, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi provenienza, hanno sottolineato come il problema maggiore della Milano di notte siano i mezzi pubblici. Tutti lamentano la scarsità, la scarsa frequenza di mezzi pubblici, il fatto che la metropolitana interrompa le sue corse troppo presto, e questo è sicuramente un elemento che pone Milano in una posizione diversa rispetto alle altre città europee, una posizione un po' difficoltosa. Un altro problema riscontrato è la mancanza di esercizi aperti 24 ore su 24. Come dicevo prima, nella Milano di notte si muovono molte persone che lavorano anche, sì, fanno volontariato, quindi i negozi aperti anche in orari notturni sarebbero utilissimi, anzi indispensabili in realtà. Mm-hmm. Ecco, questo è un problema molto grosso in Milano, questi sono i problemi principali. Poi alcuni stiamo ancora elaborando le interviste, e credo che i risultati poi saranno pubblicati sul Corriere i prossimi giorni, però posso già anticiparvi appunto che i problemi principali sono questi. Un terzo problema è quello della scarsità di illuminazione. Alcuni luoghi sono percepiti come non sicuri perché troppo poco illuminati. Ok, grazie davvero. Ravelli, cosa diventerà tutto ciò? Sarà solo uno studio? In realtà ne ho già parlato con l'assessore alla cultura. Quello che vorremmo è fare una specie di mappatura in divenire, nel senso che abbiamo proposto altre due traversate di Milano, una probabilmente a giugno o settembre e la successiva i primi mesi del 2015, per cercare di capire come la città cambia in previsione di Expo e per capire se questi problemi che oggi sono sentiti come molto gravi riusciranno ad essere risolti, appunto aspettando questa massa di turisti che ci auguriamo arrivi. Perfetto, grazie e davvero. Attività prossima. Grazie a lei. Grazie, buon sabato. Arrivederci, buongiorno. Europost-it. Lavoro a Berlino. ExpoWay è una società fondata da italiani che offre servizi di recruiting alle aziende tedesche, facendo da ponte tra start-up e piccole aziende e lavoratori italiani e stranieri in generale. Tra le ricerche di dicembre, segnala alcuni profili per lo più legati al mercato delle nuove tecnologie. Se le parole Java Developer, iOS Developer, PHP Programmer coincidono con quelle scritte sui vostri curricula e con le vostre caratteristiche, allora forse è l'occasione che aspettavate per trovare un lavoro in Germania. Per vedere le offerte e capire come lavora ExpoWay, andate su expoway.com. E questa passione che si sente anche a Natale verrà confermata da due speciali: il 25 dicembre alle 9 uno speciale L'altra Europa, alle 13 invece ci sarà Davide Paolini con un gastronauta. Buongiorno. Eccolo qua, le volevamo anticipare. Ciao Davide, benvenuto. Allora, io andrò a raccontare un po' le tradizioni europee legate al Natale, ma non toccherò il cibo perché quello sarà campo tuo, giusto? Sì, io farò un po' un giro del mondo perché andrò da Copenaghen a Melbourne, da Melbourne a New York, da New York e tornerò poi in Europa e farò un giro dell'Europa con degli chef che sono in questi paesi, degli chef anche molto importanti, che racconteranno appunto qual è il pranzo di quei, tipico di quei paesi. Quindi sarà, come posso dire, un revival di tutto il mondo per capire quali sono le tradizioni, in questo caso a tavola. Ma il panettone c'è ovunque, che so che è uno dei tuoi punti di forza. Il panettone sta esplodendo un po' tutto il mondo, in particolare in Brasile. In Brasile forse oggi c'è il più grande produttore al mondo di panettoni. Sì. E anche in Giappone diciamo che sta veramente raggiungendo dei livelli di interesse molto alti. Insomma, il panettone sta diventando un po' un qualcosa in giro per il mondo e speriamo che non ci portino via anche questa produzione. Dopo il caffè, dopo la pizza, ci mancherebbe che il panettone diventasse catene di aziende straniere. Davide Paolini, subito dopo il GR, qui con il gastronauta e poi alle 13 il giorno di Natale con questo speciale. Grazie Davide. Grazie a te, a presto. A presto. E come regalo di Natale invece, vediamo un po' il Consiglio d'Europa, il Consiglio europeo cosa ha portato, lo chiediamo a Beda Romano che oggi ha scritto un ottimo pezzo, come sempre, gli capita tra l'altro, sul Sole 24 Ore. Ciao Beda. Buongiorno a te. Con che umore si torna appunto in chiusura di questi consigli di solito? Personale o professionale? No. Entrambi. Mi piacerebbe avere entrambe le versioni di Beda Romano. Personale si è esausti, professionali ho l'impressione che ci sia sempre tempo per essere pessimisti nella vita, quindi ho tendenza in queste circostanze a essere comunque più positivo che negativo. Il vertice è terminato prima di tutto, prima del solito e prima di quanto non ci siamo abituati negli ultimi tempi, quando i consigli europei tendevano a durare nella notte perché i leader dovevano trovare un accordo su come salvare un paese in crisi. Sì. Invece in questa circostanza le cose sono andate abbastanza bene, in parte perché la notte precedente era stata una notte particolarmente lunga, perché i ministri delle finanze avevano finalmente trovato un accordo su un meccanismo unico di risoluzione e di gestione delle crisi bancarie. Mm-hmm. L'Europa sta cercando da un anno a questa parte di creare un'unione bancaria che sia il contrappeso normale e logico della presenza di una moneta unica. Certo. L'unione monetaria è nata zoppa fin dall'inizio, con da un lato una moneta unica, dall'altro dei bilanci nazionali e soprattutto dei mercati bancari nazionali. Allora, l'idea di un bilancio europeo si sta facendo strada molto molto lentamente, un po' più rapidamente è avvenuto per quanto riguarda l'unificazione dei vari mercati bancari, e quindi ci sono fondamentalmente due pilastri di questa unione bancaria. Il primo pilastro è trasferire la vigilanza sulle banche dagli Stati membri alla Banca Centrale Europea, in modo tale che ci sia una sola vigilanza per tutti gli istituti di credito in giro per l'Europa. Sì. E il secondo pilastro è questo meccanismo unico di gestione delle crisi, in modo tale che se una banca ha difficoltà o è in crisi, il problema viene gestito a livello più europeo che nazionale. Mm-hmm. Allora i più pessimisti e i più federalisti rimarranno delusi dall'accordo che è stato raggiunto questa settimana, i più pragmatici diranno probabilmente che bene o male, seppur lentamente, si sta andando verso una maggiore integrazione anche su questo fronte. Questo è stato appunto questo primo passo verso l'auspicata unione bancaria. Qual è stato un altro tema caldo invece delle... magari meno noto anche, c'è stato un qualche aspetto meno raccontato? Ma si è discusso di difesa, per la prima volta dal 2008. Mm-hmm. La difesa è un tema estremamente delicato in campo europeo, perché è un tema che va gestito all'unanimità e non a maggioranza, ed è un tema su cui le prerogative nazionali, le gelosie nazionali sono molto presenti. Allora, si è discusso soprattutto di collaborazione industriale in questo campo, un campo per il quale l'Italia è particolarmente interessata, perché l'Italia bene o male ha parecchie imprese nel campo della difesa e dell'industria militare. Si è parlato quindi di come cercare di trasformare questa industria in un volano economico, perché siamo in una situazione nella quale in molti paesi occidentali i bilanci militari sono in netto calo, ma c'è un aumento dei bilanci militari in giro per il mondo, soprattutto nei paesi emergenti. Mm-hmm. E quindi c'è il desiderio da parte dell'Europa e dell'industria di cercare di cavalcare questo aspetto. L'altro aspetto molto più controverso è se cercare di rafforzare la collaborazione politica in campo militare e quindi tentare a un certo punto di creare un esercito europeo. Allora, evidentemente questo è estremamente delicato, perché ci sono alcuni paesi che sono fortemente contrari, a cominciare dalla Gran Bretagna, che ieri ha posto tutta una serie di paletti sulla strada verso un eventuale possibile futuro esercito comunitario. Quindi questi i due aspetti della discussione sulla difesa. E Beda passerà il Natale in Italia o in Germania? In Italia. Ah, in Italia, ok, quindi non ti chiedo le tradizioni tipiche tedesche, perché non almeno lì in quei giorni non... Okay. Si mangia come ovunque, ok, mi sembra un ottimo augurio. Grazie davvero Beda, come sempre, per averci dato una fotografia sintetica di quello che è accaduto. Ci ritroveremo sicuramente il prossimo anno. Buone feste. A presto, grazie molte. Ciao. Europost-it. Un'opportunità spaziale con i tirocini all'ESA. Avete sempre sognato le stelle? Perché non concedervi un periodo di formazione per approfondire tematiche legate allo spazio e alle tecnologie di comunicazione? L'Agenzia Spaziale Europea cerca giovani studenti per stage di 4-6 mesi allo European Astronaut Center vicino a Colonia, a partire da gennaio 2014. I tirocinanti collaboreranno alla realizzazione di video di addestramento e altri materiali multimediali, come la sequenza di lancio del razzo Soyuz. Per partecipare è necessario consegnare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito ufficiale dell'ESA, esa.int, alla pagina dedicata ai tirocini. Ecco qua anche questo Europost-it appena pubblicato sulle nostre pagine Facebook e Twitter, e con questo chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Un grazie a Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, a Giorgio De Luca in assistenza, a Paolo Corleone invece alla parte tecnica. L'appuntamento a sabato prossimo, ovviamente, con l'Altra Europa, ma come vi ho già ricordato, il giorno di Natale saremo insieme con uno speciale, faremo un viaggio attraverso l'Europa alla ricerca delle tradizioni. Vivremo la mattina del Natale in diretta dalle 9 alle 10, quindi vi aspetto. Grazie come sempre per essere state in nostra compagnia. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.